30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Una riunione a sorpresa sul clima ha sepolto la speranza di un accordo globale a Copenaghen. Nella giornata dell'APEC di Singapore si era aperta già con una sorpresa. Il premier danese Lars Løkke Rasmussen, il padrone di casa del vertice danese, ha fatto un'apparizione fuori programma per proporre anche a Barack Obama e al presidente cinese Hu Jintao di giungere ad un accordo sul clima in due fasi. Buonasera e ancora benvenuti a 30 minuti in cronaca, lo spazio in cui ci prendiamo qualche minuto in più per riflettere sulle notizie. Allora, la notizia si riferiva alla riunione dell'APEC a Singapore, accadeva il 15 novembre scorso, durante il viaggio asiatico di Barack Obama. Grandi titoli in tutto il mondo. Fallimento Copenaghen è stato il più diffuso, almeno quello sui quotidiani italiani. Il 17 novembre, due giorni dopo, da Pechino, Obama torna a parlare. President Hu and I also made progress on the issue of climate change. As the two largest consumers and producers of energy, there can be no solution to this challenge without the efforts of both China and the United States. Stati Uniti e Cina vogliono che la conferenza sul clima di Copenaghen di dicembre si concluda con un successo, dirà Barack Obama. L'avete sentito citare di fatto il G2 del CO2, cioè i due grandi paesi che da soli emettono, producono il 41% del CO2. Copenaghen, insomma, muore a Singapore e rinasce a Pechino due giorni più tardi, così almeno stando ai titoli. Allora ci interroghiamo, siamo di fronte a una scatola vuota o piuttosto per la prima volta assistiamo all'emergere di una vera sensibilità ai temi, ma anche ai tempi del cambiamento climatico che coinvolge e impone decisioni anche ai grandi del pianeta. Ne parliamo questa sera con il professor Andrea Masullo, che insegna fondamenti di economia sostenibile all'Università di Camerino ed è presidente del Comitato Scientifico di Green Accord, una rete internazionale di sensibilizzazione sui temi ambientali. Buonasera. Buonasera a tutti. E con il dottor Sergio Castellari, che è responsabile del Focus Point italiano dell'IPCC, lavora presso il Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici di Bologna. Buonasera. Buonasera. Allora, professor Masullo, innanzitutto lei segue da anni il dibattito e le iniziative sul climate change. Questa settimana, come dire, ci porta a essere un po' confusi. Lei come la definirebbe? Una settimana positiva sulla via di Copenaghen o no? Ma io la interpreto così, penso che sia veramente la conferma che ci troviamo di fronte a un punto di svolta. Quando si è un punto di svolta, il vecchio e il nuovo creano anche questi conflitti paradossali per cui da un giorno all'altro si dice una cosa e poi si dice il contrario, ma è chiaro il messaggio che anche se c'è una forte resistenza ancora al cambiamento e quindi la tentazione a ritardare, però il mondo scientifico e le tante evidenze ormai che esistono non consentono più di tergiversare, quindi poi c'è questo che appare come un dietrofront. In fondo ormai il dato positivo è che i grandi politici si rendono conto che non si può fare a meno di agire con urgenza. Si fa presto insomma a dire fallimento, ma rispetto a cosa? Chiedo aiuto a Castellari, qual è il risultato che non avremo a Copenaghen e che comunque dobbiamo raggiungere, che speriamo di raggiungere nel 2010? Ma il processo si era iniziato due anni fa al COP13 di Bali nel dicembre del 2007. Diciamo il tentativo da parte di alcuni paesi tipo l'Unione Europea e alcuni paesi molto vulnerabili ai cambiamenti climatici come le piccole isole era di avere un accordo attuativo con vincoli giuridicamente vincolanti sugli obiettivi di riduzione per le emissioni di gas serra per i paesi industrializzati, ma anche per i paesi ad economia emergente come la Cina, il Brasile, il Sudafrica, il Messico. Diciamo il Medio Oriente. Insomma, un accordo legally binding, come sì, si cita, esatto. Legalmente vincolante per tutti. In programma. Poi invece, negli ultimi mesi, in realtà questa cosa non è giunta nuova, chi è familiare del processo è una cosa che già si sapeva da giugno circa, è il fatto che per vari motivi probabilmente l'accordo attuativo non verrà fatto a Copenaghen entro il 18 dicembre, verranno però presi un pacchetto di decisioni della conferenza delle parti dove vengono delineati tutti, diciamo, gli elementi tecnici probabilmente di questo accordo, però l'accordo, veramente la parte legale dell'accordo con la ratifica da parte dei paesi potrebbe essere fatta nel 2010. Insomma, ora si lavora sui contenuti. Mi rivolgo al climatologo. Ho letto Gwen Dyer, storica, autorevole editorialista canadese, specialista di questioni militari, ha appena pubblicato un saggio sulle conseguenze geostrategiche del cambiamento climatico. Il titolo è Alert, Copenaghen, ultima fermata. Dottor Castellari, siamo messi così male? Ma è chiaro che bisogna bisogna cercare di aumentare la tensione. Sicuramente, come diceva prima il professor Masullo, sono d'accordo con lui, il processo è già partito, la comunità scientifica ormai negli ultimi 10 anni ha allertato la comunità dei decisori politici, e se perfino il presidente di un paese come la Cina e il presidente degli Stati Uniti, il nuovo presidente Obama, ormai discutono di clima quando si incontrano, è una cosa positiva. Pensiamo soltanto a 3-4 anni fa, due presidenti di questi paesi non avrebbero mai parlato di clima in questa maniera. In più abbiamo anche la dichiarazione del G8, la dichiarazione del MEF di quest'anno. Il clima, l'obiettivo dei 2 gradi sono ormai diventati familiari a tutto il pubblico che segue i programmi televisivi o i giornali, quindi è sicuramente partito qualche cosa. La situazione è grave, sì, se non si prendono delle azioni di riduzione di emissioni, in particolare da parte dei paesi fortemente emettitori, entro 10-20 anni, gli scenari climatici mostrano che potremmo superare molto probabilmente la soglia dei 2 gradi rispetto ai 200 anni fa, aumenterebbe, diciamo, la temperatura media globale di 2 gradi rispetto a 200 anni fa all'inizio dell'era industriale. Questo potrebbe portare dei gravi impatti dei cambiamenti climatici in molte zone del pianeta. Ecco, qua ci arriviamo tra un momento. Volevo dal professor Masullo un aiuto a capire perché allora Obama ha preso tempo, cosa ha a che fare con l'Energy Climate Bill e questo signore a cui guardiamo evidentemente da molte parti del mondo, che è anche il neoprofeta della green economy. Allora, perché frenare ora? Perché è evidente che siamo di fronte a un passaggio, direi, epocale. Si sta chiudendo una parentesi, quella dell'energia abbondante e facile, e non soltanto quindi per la questione dei cambiamenti climatici, c'è necessità di questo passaggio alla cosiddetta green economy, però è chiaro che la vecchia economia, quella che ci ha portato fino adesso attraverso successi e contraddizioni, ha una potenza enorme di fronte all'economia emergente, ma questo è ovvio in tutti i passaggi epocali. Quindi Obama, penso, come tutti i capi di Stato, subiscono pressioni da una parte e dall'altra, e la pressione maggiore ancora adesso è quella della vecchia economia, che potendo vuole continuare a realizzare i suoi risultati il più a lungo possibile. Che cos'è la green economy? Ci aiuta a capirlo in un minuto? Beh, è molto semplice, e noi non possiamo procedere, ce lo dicono tutti i parametri fisici, ma anche la disponibilità stessa delle fonti energetiche non rinnovabili, che non possiamo ancora procedere per molto, senza parlare dei cambiamenti climatici. Non abbiamo molti decenni avanti di un'economia vocata esclusivamente alla crescita dei consumi, a una crescente prelievo di risorse naturali non rinnovabili. La green economy riguarda la riconversione a un sistema che può invece continuare a funzionare e a produrre benessere in maniera indeterminata, quindi basata sull'intelligenza nell'uso delle risorse naturali, nell'uso di risorse rinnovabili, e basandosi soprattutto su una stazionarietà dei prelievi e quindi sulla qualità poi degli utilizzi. Produrre benessere con risorse più limitate e soprattutto con risorse rinnovabili. Questo è, diciamo, la filosofia della green economy. E attraverso questo passano tutte le tecnologie, le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica, ma soprattutto nuovi modelli di concepire lo sviluppo. Castellari, la americana Mapplecroft, che è una società di valutazione del rischio, che peraltro tra i suoi clienti colossi del petrolio, Shell, ma anche Nike e Pepsi, ha pubblicato una mappa della vulnerabilità, 4 livelli fino al rischio estremo. Nei primi, cioè in alto, quelli messi peggio, ci sono le isole Stato del Pacifico, molti stati africani. Insomma, in questa mappa che io ho di fronte agli occhi, che è molto chiara, sembra lanciare un segnale molto chiaro: per qualcuno il tempo va più veloce che per gli altri. Sì, sicuramente le piccole isole sono una coalizione negoziale nel processo verso Copenaghen e hanno sempre avuto un ruolo molto strategico. Nel 97, ad esempio, mi viene in mente quando a Kyoto si discusse il primo testo del protocollo, loro arrivarono con un piccola bozza già del protocollo, erano talmente sensibili, già vedevano in là, e anche adesso sono sicuramente tra i driver insieme all'Unione Europea per un accordo attuativo, però chiaramente loro sono dentro la coalizione dei paesi in via di sviluppo, dove ci sono anche però i paesi economia emergente, i paesi OPEC, quelli che producono, che vendono petrolio, esportano petrolio, e quindi la situazione è molto complessa. Loro sono i paesi fortemente vulnerabili insieme ai paesi dell'Africa, anche perché hanno meno capacità adattiva, meno capacità istituzionale, tecnologica, finanziaria per potersi adattare ai cambiamenti climatici, quindi richiedono dei forti investimenti per l'adattamento, anche l'adattamento immediato. Questo è un concetto che è stato già discusso a Barcellona qualche settimana fa nella sessione prima di Copenaghen e potrebbe essere già inserito dentro al pacchetto di decisioni, cioè quello che viene chiamato il finanziamento a corto termine, il fast track financing, cioè dare già ai paesi, questi tipi di paesi africani e le piccole isole del Pacifico, dei finanziamenti per l'adattamento nei prossimi 3-4 anni. Insomma, aiutare in maniera chiara chi a quanto pare non ha tempo di aspettare. E per quanto riguarda noi, il Mediterraneo, sempre in questa mappa che, ripeto, ho sotto gli occhi, vedo che di fatto siamo in una zona di confine, almeno secondo questa mappa, cioè tra una zona a rischio moderato e una zona a rischio molto elevato invece nel sud del Mediterraneo, quindi qualcosa che ci riguarda direttamente. Sì, direi che conferma quanto è stato mostrato dall'ultimo rapporto dell'IPCC pubblicato nel 2007. Se prendiamo ad esempio le proiezioni climatiche mostrate dalla comunità scientifica e valutate dall'IPCC in quest'ultimo rapporto, si vede che il Mediterraneo nei prossimi 50 anni dovrebbe subire una diminuzione di runoff dei fiumi, diciamo minor disponibilità idrica. Questo andrebbe a incidere anche in un calo di potenziale idroelettrico, e calcoliamo che l'Italia ha veramente un grande patrimonio energetico in campo idroelettrico, quindi meno disponibilità idrica, meno energia idroelettrica, meno turismo estivo, meno produttività agricola. Poi potremmo avere, secondo questi scenari, un maggior ritiro dei ghiacciai, quindi anche questo, minor turismo invernale sulle Alpi, dei danni alla biodiversità, perdita di specie e in più anche maggiore d'estate, maggiore temperature più alte, ondate di calore e anche una maggior frequenza di incendi boschivi, perché si avrà meno umidità nel suolo. Quindi questi sono quello che danno, diciamo, gli scenari climatici prodotti dai più grossi centri climatici del mondo. Ecco, in tutto questo Eurobarometro ci mette noi italiani in fondo alla classifica, assieme agli amici portoghesi, della sensibilità sui temi ambientali. Il prossimo 13 dicembre tutte le chiese di Danimarca sono state invitate a suonare per 350 volte in tutto il paese, 350 rintocchi come le parti per milioni di CO2 da non superare. Ecco, la mobilitazione intorno a queste tematiche assume anche degli aspetti nuovi. Abbiamo sentito interventi del Papa, abbiamo sentito come il discorso FAO, quindi il segretario generale di UF, sia ormai strettamente legato al tema che andiamo ad affrontare. Ecco, una domanda chiede, farei subito al dottor Castellari: in questi anni sono cambiati i parametri di valutazione o il CO2 resta sempre in qualche modo il fattore primario su cui intervenire e da tenere d'occhio? La CO2 è il gas serra di origine antropogenica sicuramente più importante, soltanto per un motivo: ce n'è di più in atmosfera, è stato emesso di più. Però in realtà altri gas dentro al basket, alla serie di gas serra più importanti come il metano, sono anche chiaramente più pericolosi, hanno caratteristiche radiative più pericolose per l'intensificazione dell'effetto serra. Però la CO2 rimane sempre il parametro primario, perché abbiamo un'abbondanza in atmosfera di parti per milione rispetto agli altri gas che sono parti per miliardo. Professor Masullo, torniamo un momento tra Europa e Stati Uniti, insomma così vicini e così lontani a volte sul climate change. I diversi costi marginali di abbattimento appunto del CO2 di cui le due, diciamo, squadre, che le differenze che affrontano, bastano a spiegare questa differenza di sensibilità? Ma secondo me no, c'è da dire che l'industria europea sull'efficienza energetica si è mossa da situazioni ben diverse di quella che è la situazione americana da un punto di vista dell'efficienza degli usi finali dell'energia. Gli Stati Uniti hanno dei margini di recupero di efficienza ancora maggiori di quelli già piuttosto larghi dell'Europa. Quindi partiamo da basi molto diverse e con processi industriali, appunto, sul percorso Green Economy, iniziati con tempi e con modalità diverse. In Europa guidati molto di più dall'Unione Europea, negli Stati Uniti molto di più affidata ad iniziative private, spontanee, volontarie o iniziative di singoli stati. Insomma, l'Europa sembra anche in questo senso aver tutto da guadagnare da questo percorso. Decisamente. esattamente, e poi non dimentichiamo che la soglia limite delle 350 parti per milione è stata superata nel 2008 con concentrazioni misurate di più di 385 parti per milione, quindi sappiamo benissimo e sanno benissimo i capi dei governi del mondo che siamo già in questi scenari di rischio e che quindi i provvedimenti più si ritardano e più dovranno essere efficaci, rapidi ed onerosi. Ma c'è anche un altro elemento, io vorrei ricordare che durante il G8 Ambiente di Siracusa la Banca Mondiale ha presentato un rapporto molto interessante in cui proprio l'investimento nella green economy viene descritto come lo strumento più potente per uscire dalla crisi economica attuale, quindi veramente non ci sono più alibi per ritardare gli impegni che il dottor Castellari diceva urgenti da prendere a Copenaghen. Ecco, ma in tutto questo, secondo lei, dottor Castellari, perché Eurobarometro, che lo ricordiamo, è l'ufficio statistico, quindi non tanto perché Eurobarometro, ma perché noi siamo così in basso nella classifica della sensibilità su queste tematiche, e proprio noi italiani? Credo che bisogna allargare il discorso al discorso della scienza e della tecnologia, perché la scienza non viene probabilmente insegnata molto bene nelle nostre scuole dell'obbligo, perché molta gente non sceglie facoltà scientifica ma sceglie facoltà di altro tipo. Fa parte di un discorso generale che c'è in Italia, secondo me. Allora, come ci aiuti a, come dire, a uscire da questo, perché è chiaro che non risolviamo la questione in tempi brevi, ma come si può comunicare allora la minaccia o comunque la sensibilità a questi temi a Io chi non ha una cultura? Bisogna fare molta comunicazione scientifica, da una parte una solidarietà di noi ricercatori, diciamo la comunità scientifica italiana, che deve sicuramente impegnarsi di più nella comunicazione, non soltanto lavorare nei propri progetti, ma anche andare a fare conferenze nelle scuole d'obbligo, nelle università, per aumentare la sensibilità su tutto il tema della ricerca, in particolare nel tema che a me chiaramente interessa di più, cioè il tema dei cambiamenti climatici, del clima, della meteorologia. Questo deve essere fatto da questo punto di vista. Dall'altra parte però anche i canali principali dei media televisivi dovrebbero fare più programmi. Se lei pensi nel 2007… E radiofonici, immagino. Sì. Voleva dire radiofonici. Sì, ha vinto il premio Nobel per la pace insieme ad Al Gore nel 2007. I canali pubblici, ad esempio della RAI, non mi risulta che abbiano fatto nessun grande serie di programmi sui cambiamenti climatici. L'hanno fatto pochi programmi, sempre di pochi minuti. Allora fare dei bei programmi come vengono fatti in Inghilterra con la BBC sui cambiamenti climatici, sulle emissioni, sugli scenari energetici futuri, questo aumenta la sensibilità anche del pubblico. Insomma, la divulgazione è molto importante. Ecco, arriviamo alle misure delle cose, nel senso, tra un po' dunque saremo a Copenaghen, ci saremo letteralmente, approfitto per ricordarlo, con Radio 24 che vi racconterà per tutto la durata del vertice, quelli che sono diciamo le pulsioni, non solo l'aspettativa dei risultati ma proprio anche le novità che in un consesso di quel tipo, a cominciare dalla stessa città di Copenaghen che da solo è un formidabile laboratorio. Ma voglio chiedere ai nostri ospiti, come potremo valutare dunque l'esito di Copenaghen? Abbiamo visto che è una materia complessa, non è evidente, non è una partita di calcio che in qualche modo il risultato alla fine dei tempi si coglie. Allora comincio dal professor Masullo, secondo lei a cosa dovremmo stare attenti e come dovremmo valutare Copenaghen? Noi pensiamo che da Copenaghen debba uscire una sorta di roadmap precisa e dettagliata, nella quale l'unica cosa che possiamo accettare non ci sia ancora è la cadenzazione degli obiettivi parziali, ma ci devono essere ben definiti e chiari i criteri, i metodi, le strategie e gli obiettivi fondamentali. Ecco, questo noi ci aspettiamo, ci saremmo aspettati, avremmo desiderato qualcosa di più, la definizione di una strategia completa e da attuare e mettere in pratica subito. È accettabile a malincuore soltanto un ritardo a fronte di un passaggio che però sia veramente un ingresso, diciamo, diretto alla definizione di una strategia in un momento che deve avvenire in tempi molto stretti. È un po' noi come associazione quello che proprio lei diceva, la difficoltà di capire quali devono essere i risultati e la difficoltà anche di comunicare. La l'associazione Green Accord si occupa proprio di questo. Noi vorremmo che arrivasse al pubblico un messaggio non complicato scientifico, ma dell'importanza di quello che già sta accadendo oggi. Ecco, questo è un po' il lavoro che si dovrebbe fare con gli operatori dei media, che invece spesso la comunicazione in campo ambientale tendono a spettacolarizzarla in un momento e poi dimenticarla senza spiegare, senza contestualizzare. Dottor Castellari. Sono d'accordo con il professor Masullo. Io mi auguro intanto che i media dopo Copenaghen non si calmino e smettano di parlare di scenari futuri di emissione di gas serra, ma che continuano a parlare, perché probabilmente a Copenaghen verrà fuori, come ha detto il professor Masullo, una roadmap per un prossimo anno, dove si dovranno decidere, come diceva Masullo, gli obiettivi a medio termine, cioè al 2020, quanta percentuale di riduzione di emissione di gas serra per i paesi industrializzati e per i paesi ad economia emergente devono ridurre nel 2020 e al 2050, quello che viene detto obiettivo a lungo termine. Le percentuali che sono in gioco sono tra le posizioni dei paesi industrializzati, tipo l'Unione Europea, e quelli che vorrebbero invece la Cina, che vorrebbero che facessero i paesi industrializzati, si para tra i 40 o i tra il 50 o il 30% al 2020 e tra il 90-85% e il 50%. Quindi c'è molto spazio di manovra. Se però si riuscissero a buttare giù questi numeri, questi dati, già nelle decisioni della COP di Copenaghen, della COP 15, non sarebbe male, sarebbe un gran risultato, con anche, come diceva prima il professor Masullo, i dati tecnici per la verifica di queste riduzioni, cioè quello che si chiama i vari principi di conformità delle riduzioni, capire che queste riduzioni vengano verificate, vengono stimate in maniera corretta. A questo punto rimane la parte legale dell'accordo, cioè fare un protocollo, fare un accordo veramente con delle riduzioni vincolanti legalmente. Questo sarà fatto probabilmente nel 2010. Se abbiamo già tutti questi numeri, è già un grande passo avanti per la diplomazia ambientale internazionale. Grazie ai nostri ospiti che ci hanno davvero aiutato a capire e a orientarci in questa complessità che riguarda tutti noi. Voglio concludere con una citazione: il summit mondiale dell'ONU sul clima a dicembre sarà un successo, lo dice Ivo De Boer, che naturalmente è parte in causa, segretario esecutivo della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Ma perché lo dice? Dice: ogni giorno vediamo sia paesi industrializzati che in via di sviluppo prendere nuovi impegni, e questo probabilmente è il vero segnale che, su cui oggi dobbiamo tenere gli occhi ben aperti. Come vi ho detto, noi seguiremo nel dettaglio il vertice e i suoi sviluppi. Per ora è tutto, non mi rimane ancora che ringraziare gli ospiti e Fabio Cantadori in regia, ricordarvi radio24.it e augurarvi un ottimo fine settimana.